Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci alle 8:19 minuti, caro questo Oscar. Questo 10 marzo, in cui in realtà, io dirò anche i dati di santi del calendario, ma di santo ce n'è uno oggi per tutta l'Europa, c'è solo San Mario Draghi oggi, perché oggi è il giorno di Mario Draghi, San Mario Draghi. In ginocchio ad aspettare tutti i miracoli che i governi non sono in grado di fare, perché non vogliono tagliare la finanza pubblica, perché dicono che hanno le banche sane, perché si inventano qualunque palla pur di non fare niente, e allora Draghi deve fare tutto lui. C'ha il bazooka. Ma quale bazooka? C'ha il bazooka. La lista di quello che oggi è teso da Mario Draghi è praticamente una cosa che quando si rifornivano le madie dopo la fine della quaresima, quando tutti non mangiavano per 40 giorni e niente, se vai a vedere, una cosa paradossale. Solidarietà a Mario Draghi, oggi però non vota il governatore tedesco, quindi almeno questo, Draghi si è ricordato di essere machiavellico, perché ha stabilito il giorno in cui per rotazione il governatore della Bundesbank oggi non vota su queste quindi, misure. Detto che oggi è San Draghi, però in realtà però poi in i santi realtà ci di sono oggi, anche dei santi. Sì, sono San Macario, che è quello che fa ritornare la Gerusalemme sotto Costantino alla scoperta delle croci, non si chiamerà più Elia Capitolino, Sant'Attala, San Maria Eugenia, non Attila, Attala. Non era Attala, flagello di Dio, come esatto. Nel famoso film, ma è l'abate di Bobbio, un abate di Bobbio del tempo. Poi San Drottoveo, se avete mai conosciuto un Drottoveo, San Gaio, martire in Africa, che non c'entra niente con le cronache, ovviamente. Oggi, che cosa veniva dalla storia? Oggi nel 1302 Dante veniva esiliato da Firenze e però nasceva anche oggi insieme a Sharon Stone, che insomma mi fa piacere ricordare, Chuck Norris. Che ho scoperto oggi, non credevo, gli anni passano ragazzi, sai che Chuck Norris è del 40, quindi c'ha la bellezza oramai di 80, 70, 76, insomma, 76 anni, 75, anni. 76, gli anni passano, il duro repubblicano per così dire, per antonomasia, no? Chuck Norris è del 1940, lui, Chuck Norris, come puoi immaginare. Beh, sì, non ti film, aspetti magari. Esattamente che sia un po' come Clint Eastwood, un elettore di Bernie Sanders, ecco, non proprio uno, no, ecco. Beh, non vabbè, proprio che c'entra, perché faceva col nunchaku e tutte quelle battaglie lì. Sì, però le faceva appunto le battaglie, le faceva belle con le mani cariche di armi che sputavano, ecco, che sputavano, ecco, fuoco, per così dire. Comunque, apprendendo allora, che Berlusconi da Salvini chiede lealtà, non so con quale. Sì, sarà. Berlusconi dice anche vincerà Bertolaso al primo turno, al quindi primo non turno. Ci sarà bisogno del ballottaggio, cari amici di Roma. Questo non ci sarà bisogno del ballottaggio. Berlusconi. Beh, sicuramente non con un ballottaggio col candidato di Berlusconi, questo mi pare. No, ha detto perché vince Bertolaso al primo turno. Certo. E ci pensa San Dottoveo a fare questo miracolo. San Dottoveo. Oh, ma l'hai visto il report? Adesso poi andiamo anche alle notizie. Però mi ha molto colpito il report annuale sulle assenze dei dipendenti del Campidoglio a Roma, presentato ovviamente da Tronca. Ogni giorno nel 2015 assenti il 22,9% del totale dei 22,9%. Dipendenti. Tieni conto che persino a Napoli sono 16,2, dati non so quanto affidabili. Ma senti che cosa? Ufficiali. Malattia, ovviamente. Per tutto, malattia, permessi, eccetera, eccetera. Tieni conto che la media del privato sta tra il 5 e il 7%. Vabbè, dai, io adesso si vede che al comune all'anagrafe, di Roma ci si stressa. All'anagrafe record: 26,8% di assenti ogni giorno al comune di Roma. Ci si auguri stressa, al prossimo sindaco. Ci si stressa. Queste misure di assenteismo, io non so veramente che cosa dire. Ci però, si stressa molto, evidentemente. Però, come ci si stressa a fare le primarie? Ragazzi, io. Cioè, i giornali parlano di primarie. Tra l'altro, dicono il PD non rispetta le regole. Il PD non, e invece Bassolino ha presentato il ricorso, lo ha fatto oltre le 24 ore dalla chiusura dei seggi. E quindi vedi non, che il PD rispetta le regole, dicono che poi non le rispetta. Rispettano le regole tutte. Le hanno rispettate, solo e hanno detto che fanno ricorso comodo. Fuori tempo massimo. E quindi a me ha molto colpito le pagine che oggi Repubblica dedica all'argomento del dibattito interno fulmicotonico nel PD, perché uno degli articoli che più mi è piaciuto, quello di di De Marx, che insomma raffigura una sinistra interna con dichiarazioni di speranza durissime, dicendo tanto con questi non ne veniamo a capo più, cioè questi sono arroganti, insomma, detto questo, per esempio anche il commento di Stefano Folli che dice non sarà più dibattito interno al PD a venire a capo di questa storia, giudicheranno gli elettori, perché si andrà a candidati a sinistra del PD in tutte le grandi città, da Roma a Milano a Napoli. Vabbè, insomma, a Napoli qualcuno dice che questa vicenda porterà alla rielezione di De Magistris, una sorta di assist. Beh, a Milano, dice il Fatto Quotidiano, ormai pare sempre più certo che Gerardo Colombo, ex PM, che di Mani Pulite, lo abbiamo avuto anche varie volte, adesso passa il tempo a insegnare legalità ai ragazzi, perché dopo il no della Balzani a candidarsi a come assessore per Sala, tutti se lo aspettano. Appunto, quindi questa frantumazione, ma tanto a Roma vince Bertolaso al primo turno, siamo a posto, ha detto Silvio come Berlusconi. Come è noto. Possono avere dubbi su questo. Non si sa. Al Movimento 5 Stelle sono molto arrabbiati e dicono, senti qua, Di Battista, sulle primarie del PD. Noi facciamo in questo modo, abbiamo degli attivisti qualificati, iscritti, gli altri hanno truppe cammellate, voto di scambio e di fatto poi Mafia Capitale inizia così, se ci fate caso, prima si truccano le primarie e poi si finisce a Mafia Capitale. E oggi il di collegamento nuovo, è bello forte, quello di Battista, si parte truccando forte le primarie e si finisce a Mafia Capitale. È bello forte però che i capi bastone, protagonisti dell'indirizzo transumante al voto, per così dire, delle primarie, rappresentino interessi e affari, questo è difficilmente smentibile, secondo me. Vogliamo chiederlo a un professore di diritto elettorale parlamentare all'Università di Firenze, vale a dire il professor Carlo Fusaro, che salutiamo. Buongiorno professor Fusaro, eccoci. Buongiorno a tutti. Insomma, le primarie viste così, noi l'abbiamo chiamata anche perché poi ci deve raccontare qualcosa di quello che succede al Senato, ma queste primarie, come definirle? Almeno un pasticcio, questo sicuramente, visto che a Roma hanno addirittura gonfiato le schede bianche per la stessa ammissione, per far apparire più gente al voto, ma vanno riformate, vanno... No, le primarie attuali italiane sono primarie private, non sono primarie pubbliche. E ci aveva provato la regione toscana a disciplinarle con una legge che poi inopinatamente è stata abrogata per rimetterci le preferenze. È questione di scelte, quegli interessi, vi sentivo un minuto fa, passano dalle preferenze, passano dalle primarie, cercano di passare dovunque trovino un pertugio. Ma che attendibilità hanno? Questo si chiedono i cittadini, che attendibilità hanno queste primarie? Beh, hanno un'attendibilità, diciamo, di massima ce l'hanno, non esageriamo, sono episodi che si verificano, non a caso nessuno ha avuto sostanzialmente da ridire sulle primarie milanesi, quando le primarie avvengono in contesti più degradati, i problemi a contenerle, nonostante l'application di cui avevo letto antibrogli, non ci sono stati brogli, c'è stato qualcuno che ha pensato di mettere in mano un euro o due, che sono il contributo che vi ho richiesto per votare. Non credo che quella sia vera, non è che un voto di scambio nel senso io ti pago. Ti chiedo di andare a votare, è un fastidio, ma mi chiedono pure 2 euro, va bene, tieni 2 euro. Insomma, voglio dire, meglio farle che non farle, no? Io penso. Poi valuteremo se il margine di imperfezione è tale da condannarle. Sarebbe bella una legge pubblica. Professor Fusaro, ma appunto è questo, perché il problema non è che sono le primarie sono private, i partiti restano associazioni private con tutti i poteri che hanno, dicono esatto. Passano i decenni, la legge tanto non la fanno, c'è poco da fare. Ma tu vedi, mi permetto di dare del tuo, certo, Giardino, ci conosciamo da 40 anni, perché tu vedi la difficoltà, c'è per esempio un forte raggruppamento politico, non so come lo devo chiamare, che si chiama Movimento 5 Stelle, è radicalmente contrario a una disciplina troppo penetrante nel partito politico. O mi sbaglio? Sì, loro dicono perché non siamo un partito, siamo un movimento. Vabbè, ho capito, non è zuppa e pan bagnato, diciamo, a Firenze. Ma appunto si vede come in 70 anni di storia repubblicana questa della disciplina dei partiti è una cosa che di cui si riparla. E oggi con le nuove norme sul finanziamento siamo meglio di prima, stiamo meglio di prima perché gli statuti vanno depositati, c'è un minimo vago controllo, certo la sì, disciplina controllo di cui si fa volentieri a meno, i soldi ce li si prende comunque, però è successo così. Ecco. Tra l'altro lei, il professor Fusaro, è diciamo esperto di sistemi elettorali, però le faccio una domanda come da commentatore politico, che ne pensa del Renzi, che qualcuno dice forse 2 anni anni fa avrebbe detto di fronte a queste scene, a questi pasticci, bisogna far saltare tutto. Ora invece dice no, la minoranza PD non metta in discussione sempre la questione delle primarie e i candidati, si va avanti. Ma ora io non so cosa dire, l'episodio di Napoli va valutato in tutta la sua serietà o tutta la sua limitatezza, francamente non mi sento di giudicarlo, mi sembra anche l'unico di cui ho sentito parlare, ripeto, fra Milano, Grosseto, Trieste, eccetera, eccetera. Quindi valuteranno loro, ci sono le cosiddette prove di resistenza, cioè la differenza di voti fra il candidato e l'altro, in quante sono le sezioni in cui si sono verificate cose poco chiare. E che devo dire, non so le primarie a cui ha partecipato il Presidente del Consiglio in carica del 2009, mi pare, 2013, 12-13, chiedo scusa, la prima sconfitta, la prima vinta, come sono andate. Anche quando vinse le primarie a Firenze a sorpresa e diventò poi sindaco, ci fu discussione, hanno votato gente di centrodestra, capito? Certo. Questa cosa, vabbè, lì quello... che fai primarie aperte pubbliche, è consentito. Te la porti dietro, insomma, vorrebbe una disciplina pubblica, quella sarebbe veramente utile, naturalmente costerebbe qualcosa. Costerebbe qualcosa, però chi le vuole fare le fa con delle più garanzie a quel punto. Ci vorrebbe, professore, anche una disciplina. Vedi, su questo insisto un secondo, in Toscana sono state soppresse, dopo averle fatte due volte, Oscar, proprio all'insegna del motto siccome le fa solo il PD, non è giusto che la regione paghi per il PD. Risultato, primarie private anche in Toscana. Che vi devo dire? Ci vorrebbe una disciplina anche per, veniamo a quello che abbiamo letto sul Fatto Quotidiano, ci sono 41 gruppi o sottogruppi ormai al Senato, sai che si parla molto di voltagabbanismo, di gente di transumanza, addirittura come se fossero delle bestie, di senatori o parlamentari. Professor Fusaro, c'è un argine a tutto ciò? Degli argini si potrebbero immaginare a livello costituzionale, a livello di regolamenti parlamentari, per collegare in maniera più stretta voto popolare per una forza politica, gruppo parlamentare, e mantenimento, diciamo, della fedeltà tendenziale al gruppo parlamentare. Però attenzione, perché qui ci muoviamo in un sottile e delicato equilibrio che dall'altra parte c'ha la libertà di mandato. Ma se noi basta non toccare la libertà di basta non toccare la libertà di mandato, ecco, e non mettere il vincolo di mandato, però con i regolamenti parlamentari si può fare un mucchio di roba. Qualcosa si potrebbe fare, spero si farà quando si riformeranno, tanto ora se la riforma va avanti andranno riscritti di sana pianta certamente quello del Senato. Facciamo alcuni esempi, cosa si potrebbe fare? Ecco, il punto è questo, ci sono transumanze e transumanze, da maggioranza opposizione, da un gruppo all'altro. Ora questa è una legislatura in cui ne serviste di tutte, mi permetto di segnalarlo in 3 secondi. Primo, Movimento 5 Stelle, partito ex novo, non partito, che ha perso per certe sue prassi interne un sacco di gente, è un fenomeno particolare. Secondo, si è spappolato il centro costruito un pochino, come dire, alla bersagliera intorno a Monti di Scelta Civica, e quindi questa gente che cerca collocazione di qua, di là, alto in basso, forma e riforma gruppi. La transumanza spesso sono le stesse persone che fanno e rifanno gruppi alla ricerca di una collocazione. Terzo punto, si è spappolato il centrodestra intorno a Berlusconi, responsabilità probabilmente loro interna, e anche questa è gente che Nazareno, non Nazareno, prima faccio il Nazareno, poi scappo via, eccetera, eccetera, non ha più una bustola. E questo spiega la transumanza. E la transumanza, certo, si tollerano troppi gruppi. Però per concludere, professore, ma cosa si potrebbe fare, chiedeva appunto Oscar, a livello di regolamento parlamentare per evitarlo? Una cosa concreta che è fattibile oggi? Abolire il gruppo misto. Ridurre le prerogative finanziarie e regolamentari dei deputati che non appartengono a nessun gruppo, vincolare la possibilità di fare un gruppo a dei numeri precisi, oggi è 10, indiscutibili, senza deroghe. E ci sono costituzioni che prevedono anche la decadenza del mandato per chi cambia partito, ma sono, devo dire, delle eccezioni: Portogallo, Croazia. Questo, certo. Io, in Israele, grande paese, convenzione dei partiti, infatti lì i cambi di fronte sono rarissimi nella storia, si possono fare, però poi non ti ricandidano, nessuno. Però Abbiamo appena citato un paese dove l'amministrazione politica sfiora e forse supera quella italiana, quindi mi terrei abbastanza d'accordo, ma... però lì chi cambia fronte non ha più case, non ha più tetti, e quindi no. Bene. Professor Fusaro, noi la ringraziamo molto per essere stato con noi, è stato molto chiaro, ricordiamo insegna diritto elettorale e parlamentare all'Università di Firenze. Certo, quando dice Oscar ridurre le prerogative finanziarie è quando li tocchi nel portafogli, certo, forse potrebbe dici, essere quella guarda, più efficace, puoi uscire dal tuo gruppo ma non avrai più le segretarie del gruppo, l'identità del gruppo, come calerebbe il numero. Perché dando il numero per i nostri ascoltatori 800 24 00 24, se volete chiamarci potete chiamarci sulle primarie, se volete chiamarci su questa cosa che approfondiremo anche con un senatore che ha fatto 7 cambi di casacca, Luigi Compagna, tra poco un altro che conosco da 40 anni, parlateci se volete, raccontateci cosa ne pensate di questo voltagabbanismo. Il professor Fusaro dice che ci sono degli strumenti concreti per fermarlo, per esempio toccarli nei soldi, cioè, il più chiari, concreto di tutti è l'unica quello. Cosa vera su quell'altro che è dibattito politico, sì, dai. Se meno volete soldi. Parlarci del bazooka di Draghi, insomma quello che volete, quello che vi ha colpito, siamo qui, tra poco dopo la pubblicità. Sono le 8:38 minuti, caro Oscar Giannino, eccoci qua nel grande paese dove i 3.400 giudici tributari finalmente vengono indicati come ladri e tangentisti. Sono felice, viva Repubblica, cioè, che sì. Ha aperto gli occhi, aperto, diciamo così. Non è che occhi, è successo sì. Niente, ogni tanto qualche grande giornale mette insieme notizie che Gino Danni dice però. No, ma infatti la notizia secondo me di questa cosa che ho letto anche la stampa, che c'è su tutti i giornali, sul Sole, però Repubblica ha messo in prima pagina dicendo attenzione perché forse da qui, come con Mario Chiesa la prima tangente, può partire una vera e propria tangentopoli finanziaria, vogliamo chiamarla così, questa roba qua, cioè giudici onorari, commercialisti, mettono insieme indagini, ci sono danni. Allora sì. Che i giornali italiani non siano sensibili, proni come sono al fisco, all'agenzia delle entrate, a cominciare dal Sole, sono critico esplicito da questo punto di vista, mi dispiace e mi prendo la mia responsabilità. Io penso che i grandi giornali dovrebbero stare dalla parte del contribuente, non dalla parte dello Stato. Per esempio stamattina è in corso, anzi, alla riunione alla sede dell'Agenzia delle Entrate di Roma, un incontro sulla buona collaborazione con la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, il capo della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del Ministero e i rappresentanti di Repubblica, ANSA, Sole 24 Ore, Corriere della Sera. Io mi auguro che gli autorevoli colleghi dicano che il nostro compito è di stare dalla parte del cittadino. Capisci? Loro vogliono l'informazione invece asservita allo Stato, dice che lo Stato ha sempre ragione, no? Sul fisco. Allora, scoprire adesso che da anni c'è gente che si fa pagare, i giudici fiscali si fanno pagare, le indagini sono in tutta Italia, sì, come certo, basta leggere, no? Milano, ecco, c'è e cioè Catania, che c'è Roma. Lo Stato fa mercimonia delle norme dello Stato e del contenzioso che a favore dello Stato, perché quello tributario è così, se vuoi andare in contenzioso devi pagare per sederti, è come un tavolo del poker truccato, tanto per ricordarlo a tutti, no? Ecco, allora questa cosa io sono soddisfatto. Naturalmente non è che dietro ci sia una regia, è che è così, ed è così da anni, questo è il punto vero. Ma no, ma viva chiaro. Repubblica che se ne accorge, però... Che lo mette in prima pagina, che la mette come notizia esatto, perché principale. Almeno un po' i contribuenti vedono che i mali del fisco sono anche nello Stato. Comunque ci chiamano tanti ascoltatori, soprattutto sulle primarie, vedi che questo tema evidentemente... Sì. Federico ci chiama da Roma, Federico, eccoci. Pronto? Eccoci, pronto, buongiorno. Ciao, buongiorno. Eccoci. Dunque no, sulle primarie volevo aggiungere una chiosa. Io ero in uno dei gazebo qui a Roma, no? Sì. Sulla questione delle schede bianche, dunque lei prima ha detto, non so, non è che l'abbia detto solo lei, è una voce che gira, che sarebbero state gonfiate, ha aumentato il numero delle schede bianche per voce che gira, lo hanno detto dirigenti del PD di Roma. Lo hanno ammesso, abbiamo sbagliato. Sì, ma appunto, no, ecco, questa era la questione. Sì. Allora tutti quelli che partecipano alle primarie, sto parlando degli iscritti e i simpatizzanti del PD, sono volontari, no? Quindi voglio dire, non è che abbiano una preparazione così specifica poi come viene fatto per le elezioni diciamo così nazionali, politiche eccetera. Quindi che succede? Succede che siccome quest'anno sono stati consegnati ad ogni seggio un kit con i verbalini da compilare e un numero enorme di schede da votare, che poi non erano schede già vidimate precedentemente, ma erano dei semplici fogli con i nomi dei candidati iscritti che andavano poi al momento utilizzati, no? Vabbè, ma traduce che cosa, Federico? Che c'è stato qualche errore? No, allora, il problema è stato questo, che quando poi c'è stato da fare i verbali alla fine della giornata, sono avanzate tantissime di queste schede e siccome il verbale non era chiaro, cioè non si capiva bene se queste schede andassero, quelle non votate andassero ricontate, sono state messe come bianche, sono state messe come capito, bianche, ecco, in realtà non erano, cioè neanche, non è, lei, non è, ah, io ho capito, Federico, lei ci vuol dire, va bene, lei Federico ci vuol dire, non è stata una truffa ma una imperizia nel gestire una situazione, siccome non siete al Ministero dell'Interno, vi rimanevano delle schede, delle schede non prese dalle urne, facciamo il nostro mestiere, sono state segnate Jacopo come bianche. Jacopo Iacoboni dalla Stampa di oggi, uno dei principali dirigenti del PD di Roma, virgolettato la cifra, lo dico anche al nostro ascoltatore, la cifra dichiarata informalmente a caldo di quasi 4.000 schede bianche o nulle è visibilmente costruita a tavolino, per far vedere che, cioè, sono andati loro, a votare più persone da loro, è una cosa che non sta in piedi, tanto che Giachetti avrebbe commentato: ma chi è quel genio che ha partorito questa idea? Ora adesso Federico ci dice invece che era più imperizia, ci sarà stato un misto di imperizia e un misto di qualcuno che ha tentato di gonfiare, non lo so adesso, caso più per la caso seconda. Più la seconda. Ci chiama Nicola da Verona. Nicola, buongiorno. Buongiorno. Volevo tornare un attimo sul discorso prima del cambio di schieramento dei parlamentari. Sulla Costituzione c'è scritto l'articolo che dice che ognuno viene eletto senza vincolo di mandato. Questa cosa è da cambiare sicuramente, perché se io do un voto al mio rappresentante, questo cambia schieramento, non è più mio rappresentante. Quindi non vedo perché debba rimanere questo articolo che crea problemi di stabilità a tutti i livelli. Cioè lei vorrebbe cambiare il vincolo di mandato, è un modo il vincolo di mandato quello che si diceva, è una piccola cosa che cambierebbe tutto. Però lì bisogna cambiare, fare un cambiamento profondo, mentre quello che ci diceva il professor Fusaro, cioè agire sui regolamenti parlamentari, già non c'è bisogno del doppio voto a maggioranza qualificata. Potrebbe essere un modo, per esempio, per fermare coloro che cambiano mantenendo casacca. Tutti i sostegni dei gruppi parlamentari, sussidi eccetera. Ieri veniva citato sul Fatto il recordman di questi cambi di casacca, Luigi Compagna. Buongiorno senatore. Buongiorno, buongiorno. È vero che lei è il recordman, ha fatto questa classifica, sa se detiene questo primato? Sì, il Fatto Quotidiano lo ricorda spesso a me e ai lettori. Devo dire però che l'immagine mi pare un pochino ingiusta e ingenerosa, perché l'immagine basta, poi ognuno può ritenere quello che vuole. Cambi di casacca si intende passaggi dal voto di fiducia in favore dei governi all'opposizione, o più spesso dall'opposizione al governo. Da uno schieramento all'altro. Sì. Da destra a sinistra, diciamo, da destra a sinistra. Sì, il mio cambio di casacca... sono stati molteplici, ma sempre nell'ambito del centrodestra. Ah, perfetto. Cioè PDL, eletto nel PDL, lei oggi è conservatore e riformista, confitto, tanto per capire. Sì, per la verità l'ho fatto più che altro per reagire a un'operazione che mi sembrava dispotica e prepotente. Di solito quando un gruppo resta in seguito all'acquisizione da parte del gruppo di Verdini di un collega, con 9 e non più 10 parlamentari, gli si dà un certo periodo di tempo perché un decimo possa aderire. Perché ricordiamo che 10 è il minimo per fare un gruppo al Senato. Cioè, . No, è una normativa che io conosco bene, perché sono entrato in Senato col glorioso Partito Liberale nel 92, eravamo in 5 e si cambiò il regolamento passando da 10 a 5 per consentirci di fare gruppo o gruppetto. Però senatore, mi scusi, ma è vero, lei ha fatto 7 cambi di gruppo, mettiamola così, 7 dice il Fatto, sono giusti? Sono giustissimi, però pensavo avesse perso il conto, no? Perché stava facendo i calcoli. Un pochino l'ho perso, non lo contesto, però vorrei dire, originariamente io sono stato eletto con il PDL, d'accordo col capogruppo del mio partito ho aderito al gruppo misto, Sì. Al gruppo misto che cosa accade? Il gruppo misto del Senato, grazie a una interpretazione molto azzardata del presidente Grasso, viene legato ai senatori di SEL. Non c'è più il gruppo misto. Sì. Quindi il vero gruppo misto nasce dagli espulsi del gruppo misto, che fumo io, altri 4-5 colleghi. Però, senatore, qui, cioè Oscar Giannino, insomma, l'idea è che se si toccassero, per esempio, sui finanziamenti, le persone che escono dai gruppi perché hanno su segretarie, sulle prerogative finanziarie dei gruppi, forse si fermerebbe questo. Cioè, un cittadino cosa pensa di questa che viene definita transumanza, con un po' di volgare definizione? Ma guardi, senza volgarità, per ritornare alla discussione che ho in parte ascoltato sull'articolo 67 della Costituzione, sulla libertà di mandato, e guardi, facciamola più semplice: o c'è la democrazia diretta da Jean-Jacques Rousseau al Movimento 5 Stelle, o in democrazia rappresentativa la libertà di mandato è irrinunciabile. Si può organizzare diversamente, come dice lei, la questione dei finanziamenti logistici ai gruppi parlamentari. Questo lei ha perfettamente ragione, ma appunto è una questione della presidenza. Però non toccare il vincolo di mandato. Risultato, Oscar, che ci sono 340 parlamentari in questa legislatura che sono andati. No, ma io sono dell'idea che la libertà di mandato deve restare. Detto questo, direi che a quel punto tu esci dal gruppo, perdi alcuni sostegni che solo l'adesione al gruppo ti consente. Sì. Io sono contrario anche alla proliferazione dei gruppi rispetto a quelli presentati alle liste parlamentari, devo dire la verità. Perché la moltiplicazione appartiene a Cristo, perché ci credo, ma gli uomini dovrebbero andarci. Citato Israele, io non lo sapevo, esatto, dove sei cambi gruppo non ti vota più nessuno, non penso che sia una dittatura. Poi, Israele, contano anche le tradizioni, per esempio in Giappone è possibilissimo, si può cambiare gruppo eccetera eccetera, però i casi sono di parlamentari rappresentati alle elezioni, se hanno cambiato gruppo di elezione, credo che siano due in tutta la storia del Giappone repubblicano, perché il giapponese a quel punto, anche se te li cambi, dicono tu no. Perché hai cambiato? Cioè, senatore Compagna, molti cittadini assistono a questo e dicono: ma è immorale, non è etico. Certo, c'è il vincolo di mandato, quindi non è illegale. Nessuno sta discutendo sulla legalità, ma considerano una delegittimazione di un Parlamento dove in 340 vanno da una parte diversa da quella. Anche se aggiungiamo, la cosa scandalosa è che in realtà sono quelli che poi consentono a governi che non hanno maggioranze di andare in piedi. Di solito questo è il fenomeno più grande. È successo con Berlusconi, succede con Renzi, questa è la storia. Lei, senatore Compagna, che risponde a questi cittadini arrabbiati? Non abito né ai miei vicini. No, non la sentiamo più, dove è andato? Non la sentiamo più. Mi sente? Sì, sente. Bene, adesso okay. Sì, ecco. Non abito né ai miei vizi né alle mie virtù. Vorrei ricordare però una cosa, Giappone, Europa, quello che vuole. La procedura tra la sovranità dei cittadini, che è il voto, e la sovranità dell'assemblea parlamentare è del tutto staccata. Io posso benissimo essere eletto con una lista, un simbolo, ma nel momento in cui divento parlamentare, sono proclamato tale, scelgo io il gruppo di appartenenza. Io ho paura, ho il terrore di sistemi come gli ipermaggioritari che stabiliscono invece un rapporto diretto tra il partito e il gruppo parlamentare. Il gruppo parlamentare è una finzione procedurale, organizzativa. Il cittadino è sovrano di non votare il principe di Volta Gabbana, fra virgolette, senatore Compagna, ma il senatore Compagna è sovrano di, come principe, super principe di Volta Gabbana, di cambiare gruppo anche tutti i giorni. La ragione poi tutti i giorni, no? Chiaro, certo. Lo dice come esagerazione, non lo farà, però. No, non lo farò, ma mi consente di dire la ragione autobiografica per la quale io ho dato la mia adesione e il decimo senatore al gruppo a cui lei faceva riferimento, era che se no altrimenti dall'oggi al domani, per la pressione di Verdini e Zanda sul senatore Grasso, delle persone a me sconosciute dei gruppi, dei cose, sarebbero stati licenziati. Non perché ho voluto salvaguardare mie posizioni personali. Ho capito. Ma quali persone sarebbero state in cioè, salvato? Ma è ovvio perché non ci sarebbe stato il gruppo. Esatto. Però, senatore Compagna, ci conosciamo da tanti anni e sa l'affetto che porto a lei, a suo padre, alla tradizione. Però, detto questo, lei ha appena detto, infatti, che come vede non c'entra niente con la libertà del parlamentare, cioè, cioè le questioni organizzative, finanziarie, economiche, logistiche dei dipendenti finiscono per prevalere, sì. Cioè, che cioè, capisco, nella vita reale sì, però... altrimenti venivano licenziate cosa? Segretarie, scusi, c'erano meno fondi? Ma mi scusi, tutto questo però non nasce con la voracità dei parlamentari che vogliono imporre i loro apparati personali, nasce con la debolezza per l'organizzazione dei parlamenti. Sì. Nello stesso Parlamento italiano, fino al 1991, mi sembra, i cosiddetti portaborse, i precari, non erano previsti, proprio perché non si voleva contatto tra la segreteria del parlamentare e il personale del Parlamento. Sì, diciamo, lei non lo fa, dice non lo si fa per una voracità personale, ma per salvare, in questo caso, altre persone. Però il risultato è che, appunto, come dici tu, Oscar, non c'entra molto con questioni con i sacri meramente principi, no, politiche. Della libertà, con i sacri principi della libertà. Comunque, senatore, noi la ringraziamo perché ci dobbiamo anche fermare. Anche perché, senatore, è uno dei pochi compagno. Che accetta con pacatezza di parlare. Spiegare, dice, con molto piacere, vengo lì a spiegarvi perché. Ci dispiace Monica da Padova e Sandro da Pordenone, che sono stati anche tanto in attesa, ma teniamo i vostri numeri e se possibile domani vi recuperiamo per i vostri preziosi interventi. I nostri ascoltatori sono ma preziosi. Voglio dire, per me, io apprezzo Croppi a Roma, ma uno che è stato con Alemanno, uno che adesso vuol fare l'assessore anche con Giacchetti, direi sacro rispetto alla libertà, sacrissimo per carità, sacrerrimo. Sacrerrimo. Però qualche volta qualcuno che resta a casa dopo averci parlato, no, ecco, qualche volta. Però il senatore Compagna ci dice, non voglio soldi per me, però ho salvato con 10 persone posti di lavoro. Ho capito. La politica è salvare posti di lavoro di chi lavora nella politica, però questo non va bene. Dai, ma sui poveri contribuenti che pagano, che si trovano il giudice tributario che chiede di essere pagato ancora più e ancora prima dello Stato che paga. Ma come si fa? Dai, come ragazzi, si chiedono perché la gente si orienta a un voto contro i vecchi partiti. Ma per queste ragioni qua, come si fa? Si va a bere un bel caffè, Oscar, sperando che ci passi, dai. Che non ci vada per traverso. A domani.